E torniamo in Spagna, come dicevamo, perché abbiamo in collegamento Sante, un compagno toscano, proprio dal luogo dove sono arrivati gli zapatisti. Ciao Sante, ci senti? Buongiorno a tutti e a tutti. Buongiorno, allora, come stai intanto? Bene, bene, bene. Freschi e riposati. Ieri, insomma, è stata una giornata importante, molto intensa e lunghissima. Ecco, raccontaci, abbiamo potuto vedere qualche immagine dello sbarco, però naturalmente viverla in prima persona è sempre tutta un'altra cosa. Quindi tu, fra l'altro, sei un conoscitore anche dell'ambito zapatista, anche in Messico. E quindi, insomma, raccontaci un po' come è andato questo viaggio transoceanico e questo arrivo e anche un po' che cosa ci si prospetta. Allora, dunque, bene, innanzitutto siamo qua a Vigo, in Galizia, città di mare, città di porto, la città che è stata scelta appunto dalla delegazione zapatista, le Squadron 421, come porto appunto d'entrata per questo passaggio, per questa prima invasione dell'Europa, invasione fra virgolette consensuale, incontro con tutte le realtà dal basso di resistenza, di lotta a livello europeo. Questo è quello che viene chiamato il viaggio per la vita 2021, un percorso che oramai va avanti da 8 mesi in preparazione, che è stato, diciamo, suggellato dalla Declaration per la vita del 1 gennaio di quest'anno. E appunto questo viaggio è iniziato da questa delegazione accompagnata da un equipaggio tedesco, l'equipaggio della Starlatte, una barca a vela tedesca ribattezzata poi La Montagna, una montagna nel mare appunto, iniziato 50 giorni fa, 50 giorni di navigazione da Isla Mujeres in Messico, passando per Cuba, passando per le Azzorre e arrivando finalmente ieri sulle coste galiziane, sulle coste di Vigo. Noi siamo un po' di giorni, insomma, con la delegazione di rapazze dell'Assemblea Italiana di coordinamento, bueno, un'assemblea aperta che si è creata, insomma, a fine di quest'anno per iniziare ad avvicinarsi e a relazionarsi, comunque a discutere assieme, insomma, di condividere proposte sul viaggio zapatista. E siamo qua da venerdì cercando, insomma, di dare anche un piccolo apporto allo sforzo che stanno facendo le realtà gallieche, la coordinazione gallieca nell'organizzare una degna accoglienza alle compagne e ai compagni zapatisti. Ciò che è avvenuto ieri in questo contesto, intorno, diciamo, alle 5 alle 7 del pomeriggio. Una piccola premessa: la barca era già stata avvistata 2 giorni fa. Qua parliamo però di un clima oceanico, che c'era maltempo, insomma, forte, per cui la barca si è fermata sulle coste di Bayona, che è un luogo a 30 chilometri da Vigo, un luogo molto simbolico, perché Bayona, no, la storia racconta, è il luogo dove ha fatto ritorno la terza caravella della prima invasione coloniale di Cristoforo Colombo, la Pinta. Per cui anche, diciamo, nella cosmovisione zapatista questo richiamo appunto al viaggio al contrario, all'invasione da parte delle realtà indigene nei confronti dell'Europa ha avuto una valenza particolare. Siamo riusciti a salutare la barca da lontano, facendo anche un atto, cori, striscioni, fumogeni, tutto quanto. È stato bello, molto emozionante, fino ad arrivare appunto al momento di ieri, nel quale, insomma, abbiamo organizzato una benvenuta alla discesa della barca. È sceso appunto il capitano, per prima sono sceso il capitano e tutta la Squadron 421. Nel momento della discesa, su un molo, in una spiaggia nelle vicinanze di Vigo, dove appunto era previsto l'atto di benvenuta, sono state accolte le compagne e i compagni sono state accolte dal suono delle gaite, lo strumento tradizionale gallego, una sorta più o meno di cornamusa, e da offerte e regali legati alla tradizione popolare, come l'acqua di San Juan, appunto, che cade proprio in questi giorni, nella notte di San Giovanni. La prima persona a mettere piede a terra è stata Maria José, che è una compagna otroa, una compagna transgender, che come già annunciato dagli zapatisti e dalle zapatiste, avrebbe detto le prime parole nello sbarco dell'invasione in terra europea, ribattezzando, appunto, prime parole che hanno ribattezzato in lingua indigena, in lingua tocolabal, però ora non mi ricordo precisamente la frase perché è veramente complicato, però ribattezzando l'Europa, da oggi la ribattezziamo terra insumisa e ribelle, terra che non si sottomette e ribelle, riferendosi alla altra Europa, all'Europa dal basso, l'Europa, certo, che resiste, l'Europa che loro vogliono incontrare. Da lì c'è stato un momento molto importante, c'era tantissima gente, tantissime media anche, c'è stato un momento di incontro con le persone, un momento comunque molto festivo, e lì si è fatta una piccola cerimonia nella quale le sette compagne e compagni erano accompagnate da due specchi, da due persone che l'accompagnavano, quasi li scortavano, a parte un gruppo oltre a un gruppo, diciamo, di guidato, di sicurezza organizzato dalle compagne gallieche, nella quale appunto queste persone che l'accompagnavano, una coppia quindi, los especos, erano una persona gallieca e una persona internazionale, che si sono presentate e hanno raccontato le loro lotte per dare anche un segnale della vastità e dell'importanza di questo viaggio, per rappresentare le delegazioni europee che sono qui, perché ci sono delegazioni europee da tutta Europa, dalla Francia, Germania, dalla Grecia, dai Paesi Bassi, da tutto lo Stato spagnolo, dal Portogallo e via dicendo, e per dare anche appunto una testimonianza dell'impegno delle realtà di Vigo, Santiago de Compostela, La Coruña, che in poco tempo, perché con poco preavviso, hanno organizzato una coordinazione, hanno organizzato trovato i mezzi per creare questa benvenuta. Successivamente c'è stato, oltre a questa marcia che continuava appunto per arrivare fino alla spiaggia designata, c'è stato anche un momento con un palco, con gli interventi delle compagne e dei compagni zapatisti, le presentazioni, un comunicato scritto congiuntamente da noi, da realtà europee appunto, che seguono questo viaggio per la vita, che comunque si stanno coordinando per un'accoglienza digna, congiunto con le realtà gallieche appunto che hanno colto questo impegno, devo dire con la massima generosità anche e accoglienza. E da lì un momento musicale e culturale organizzato dalle realtà locali molto molto molto interessante, e tutto è terminato ballando una cumbia ballando una cumbia, come era scritto nei comunicati precedenti anche, che le compagne e compagni di zapatisti non avrebbero assolutamente disdegnato. Beh, certo, i canti e i balli sono sempre esperienze comunitarie che portano dentro qualcosa che, insomma, anche poco spiegabile. Ma correggimi se sbaglio, il percorso, questo cammino per la vita, è tutto da costruire, giusto? È tutto da costruire, sì. È tutto da costruire. Nel momento appunto siamo in attesa della delegazione che è arrivata qua, di ulteriore comunicazione da parte loro, che non sappiamo quando arriveranno, se in un prossimo futuro, più là, per come indicazioni su come continuare il percorso di avvicinamento e di costruzione del Viaggio per la Vita 2021. Ricordiamo che questa prima delegazione, solo la prima, loro chiamano la testa di ponte, la prima delegazione appunto che entra in Europa, per poi successivamente essere seguita da decine, centinaia di zapatisti e zapatisti che verranno, una seconda delegazione che sarà la delegazione che girerà tutta l'Europa in un viaggio che comprende una trentina di paesi. Un'agenda da costruire, una tempistica da costruire, un calendario da costruire, ma confidiamo appunto che le compagne e compagni zapatisti ci diano le indicazioni appunto. Ora, per, quanto... per iniziare questo lavoro. Ecco, io fra l'altro non so se è un po' uno spoiler, magari è proprio una fake news, però in questo viaggio ci sarà naturalmente anche una tappa italiana, anzi a quanto ho capito io due, se non mi sbaglio vi sarà un primo ingresso sul suolo italiano in occasione del ventennale di Genova, quindi all'incirca in quei giorni dovrebbero essere in Liguria per poi rientrare in Italia dopo a fine estate, a settembre-ottobre, mi sbaglio? In realtà non è, in realtà sono proposte che sono state nei mesi di coordinamento e anche di contatto con loro, sono proposte come tantissime altre proposte che sono arrivate a livello europeo, sono proposte che sono state fatte, però ancora non abbiamo, ovviamente non avendo le indicazioni e i calendari che ci sono state fornite dalla prima delegazione, non abbiamo conferme di niente di tutto ciò. Abbiamo provato a dare appunto con l'Assemblea italiana e con anche un lavoro comune di ascolto, abbiamo provato a fare delle proposte, però non è, in questo senso non c'è alcuna certezza, non c'è alcun calendario già prestabilito e nessun spoiler da fare, per cui siamo in attesa in questo momento di ascoltare la loro parola e come appunto proporranno a tutta l'Europa del Basso di proseguire la costruzione di questo grande viaggio. Ecco, come possono fare le persone in ascolto a seguire? Quali sono i canali, a parte questa intervista, sperando che ne seguano anche altre? Beh, sicuramente, allora, intanto per tutto il materiale di ieri è stato fatto un grande lavoro sia insomma dalla piccola delegazione italiana qui presente che diciamo anche una delegazione di Medios Libres presenti. Ieri è stata una giornata bellissima e noi vi rimandiamo alla pagina di La Paz come la capitale della Bolivia, Italia, lì ci sono tutti i filmati, tutti gli streaming, le dirette anche riascoltabili dopo. Questo è molto importante e lì ci sarà tanto materiale. Tutto il materiale verrà sempre pubblicato lì. Abbiamo una pagina, c'è una pagina Facebook e una pagina Instagram pure. Quindi in questo senso rimandiamo a queste due pagine social. In più ci sono anche delle pagine europee che in questo momento non mi ricordo precisamente l'indirizzo del blog. Però tutto viene comunque poi rimandato, insomma, per le compagne e compagni italiani alla pagina del Paz Italia. Il sito europeo mi sembra... ci sono anche forme di coordinamento territoriale, appunto, che si rifanno poi a un'assemblea nazionale. Esiste anche una macroarea tosco-emiliana, appunto, che se non sbaglio si rivedrà e discuterà e si rivedrà in assemblea proprio durante i giorni della festa di Mondeggi di quest'anno, che dovrebbe essere questo fine settimana. Perdo un po' i giorni. Infatti, no, è questo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, fra l'altro, ci collegheremo anche con loro a breve. Allora, il sito di cui parlavi, io immagino che sia questo, è viajezapatista.eu. Esattamente. Bene. Sì, un viaggio per la vita, ecco, da qui si può, effettivamente ci sono tutto quello che si può ricercare. Bene, Sante, ci possiamo, non so, è un giornale radio, non abbiamo tantissimo tempo, magari ci risentiamo più avanti, non so se tu continuerai a seguire la delegazione? Noi in questo momento rimaniamo a Vigo fino insomma a venerdì, o più là, se cercheremo di capire come si svolgeranno gli eventi, però molto volentieri ci risentiamo, insomma, per tenere informati sui vari passaggi successivi, o comunque continuare un qualsiasi tipo di aggiornamento. Bene, grazie mille. Allora si può porta il nostro saluto da parte anche di tutta la radio, alla delegazione, a tutte le persone che sono lì, e quindi... Bene. Grazie a voi, grazie a voi, grazie a Radio Wombat e un saluto a tutte e a tutti.